straniera quanta malinconia. Quando ti salutammo non so perché, tu mi gettasti un bacio e fuggisti via, eppure adesso te lo confesso, non penso a te. Non li ricordo più quegli occhi belli, pieni di luce calda ed infinito. Mi son dimenticato i tuoi capelli e la boccuccia che era la mia vita. Ma sogno notte sì la mia carezza, la mia vecchietta che sempre aspetto, l'amore del paese e della mamma è una gran fiamma che brucia il cuore. Questa tristezza, questa nostalgia sono il ricordo dell'Italia mia. Che sempre aspetto, l'amore del paese e della mamma è una gran fiamma che brucia il cuore. Questa tristezza, questa nostalgia sono il ricordo